sera nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 9 febbraio, il sole in regione è sorto alle 7.20 e tramonterà alle 17.24. La luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. Le moderne tecnologie quali smartphone e app entrano in vigna per creare un indice di qualità di ogni singolo vigneto, un'innovazione brevettata da un agronomo friulano. E questo è l'argomento del servizio di apertura, seguito dal corsivo di Enos Costantini, che analizza le interconnessioni tra filiere lunghe e corte, passando per la soia, la Cina e i maiali. Siamo poi ai nastri di partenza del nuovo PSR, che tra le lungaggini europee difficilmente vedrà la luce in tempi brevi. Ce ne occupiamo parlando di normative. Quali sono i terreni e le zone della regione maggiormente vocate alla coltivazione dell'olivo? Continua l'esplorazione della nostra rubrica, che oggi si focalizza sulle zone collinari. Rocca Bernarda e i suoi vigneti e panorami sono poi al centro dello spazio che dedichiamo a parchi e giardini, mentre è arrivata al capolinea la rubrica che abbiamo dedicato al letame, salutando così il nostro prezioso collaboratore Sandro Menegon, che speriamo di risentire presto. Mercati agricoli, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della luna chiudono la puntata. Telefonini e app entrano in vigneto, sono due elementi tecnici di base per stabilire l'indice Bigot. Ma di cosa si tratta? Ce lo spiega il suo inventore, l'agronomo friulano Giovanni Bigot, che lo ha da poco presentato agli addetti ai lavori. Quello che ho presentato pochi giorni fa è un indice per valutare il potenziale qualitativo del vigneto, ma di fatto si tratta di quello che io negli anni ho fatto costantemente in tutte le aziende in cui mi sono recato, cioè quello di dare una valutazione il più oggettiva possibile al vigneto durante la stagione, pensando al vino che poi assieme al produttore, il produttore vuole ottenere. Cosa c'entra il telefonino? Il telefonino ce l'abbiamo sempre in tasca e mi sembrava la cosa ottimale, più logica, dove raccogliere e fissare tutte queste informazioni che sono veramente utili e fondamentali per poi comprendere il vigneto nel momento in cui c'è qualcosa da fare. E qui entra in gioco l'app. Che app si tratta? L'app è appunto un'applicazione scaricabile, si chiama For Grapes. Io l'ho pensata e costruita proprio sulla base pian piano dell'utilizzo che ne ho fatto, cioè quello di avere il modo più semplice e veloce dove poter fissare tutti quei parametri necessari a comprendere come sta il vigneto, dal punto di vista sia della sanità, quindi si possono segnare se il vigneto sta bene o se non sta bene. E c'è una funzione anche legata all'intelligenza artificiale, quindi se non so riconoscere una malattia, perché in effetti non tutti la sanno riconoscere, si preme un bottone, fa una foto e l'intelligenza artificiale ti aiuta dicendo che malattia è. Però è tutto anche georeferenziato. Sì, il mondo dei GIS, quello che vuol dire che noi siamo in quel posto dove c'è un vigneto, è importante, perché così non serve dire che sono in quel vigneto, ma automaticamente le informazioni che segno sulla app vanno in quel punto che è all'interno della mia vigna, sono dentro i filari, e quindi non lo perdo. E quindi quando lo voglio rivedere, per esempio, su una mappa, lo vedo subito che ero lì e lì ho osservato, che ne so, per esempio, che la chioma era molto vigorosa. E questo anche ci dà la collocazione fisica e geografica e ci parla già del vigneto, di quel vigneto in particolare. Sì, ogni vigneto ha, diciamo, un po' la sua storia, poi dipende da dove, in che zona ci troviamo, però sicuramente esposizione, pendenza, orientamento, direzione dei filari sono quelle informazioni che sono molto importanti per la qualità del vino e che il produttore ci tiene e le utilizza per caratterizzare poi magari anche dei piccoli cru, delle partite, delle vigne, delle etichette che arrivano proprio da quel vigneto. Ne esce un punteggio in centesimi, che fare? Con il punteggio si possono fare varie cose. Una fra tutte è avere una valutazione, cioè un numero che ti descrive, che descriva qual è il potenziale del proprio vigneto e magari scoprire che alcuni vigneti hanno potenziali più alti di altri. Allora cosa fare? Beh, uno può accontentarsi, però di solito ad accontentarsi poi non si fanno passi avanti, oppure migliorare i vigneti e separare quelli col potenziale alto e magari uscire con un vino che deriva solo da quelli, descriverlo, e nei vigneti in cui c'è un potenziale più basso avrà i fattori per cui questo punteggio è più basso, è poter intervenire. Magari dovrà curare la chioma in maniera diversa, o forse la produzione, o magari la biodiversità. E questo è un primo passo, per cui potremmo anche un giorno trovare l'indice Bigot in etichetta sulle bottiglie. Beh, questo sarebbe una grande soddisfazione, perché vorrebbe dire che il mio obiettivo, che non è quello di arrivare con l'indice Bigot in etichetta, ma quello sarebbe la soddisfazione, l'obiettivo, come dicevo prima, è quello di sapere che le persone, che i tecnici vanno in vigneto, ci stanno del tempo, quel tempo sufficiente per avere una valutazione fatta con attenzione e ovviamente anche passione e poter migliorare la viticoltura. Filiera lunga, filiera corta, soia, maiali e Cina. Un mondo interconnesso con ricadute anche sull'agricoltura nostrana, come ci argomenta oggi in questo corsivo Enos Costantini. Qui a Vita nei Campi si parla molto di suini. Deve essere un modo per parlare di filiera lunga, adesso che va di moda la filiera corta. Suini vuol dire soia. Mi dicono che qui in Friuli si coltivano circa 55.000 ettari a soia. La soia è un fagiolo, ma non per umani. Non so quanta sia rimpiegata in azienda. Ho l'impressione che in gran parte esca dal Friuli e torni anche sotto forma di prosciutti, cotti, crudi o da stagionare. I suini in Italia sono circa 9 milioni. Un bel numero. Sì, ma vuoi mettere in Cina, dove hanno un suino ogni 2 abitanti, ciò che fa 700 milioni di suini. Ma la soia è originaria della Cina. Quindi hanno il nutrimento a portata di mano. No, fino alla metà degli anni 90 la Cina era sì un esportatore netto di soia. Ora è il più grande importatore al mondo. Perché i cinesi vogliono sempre più carne di maiale. Una volta, come noi, si contentavano di un purcitta l'anno per famiglia. Roba di un mondo precapitalista. Ora sono entrati nel progresso imitando i costumi alimentari dello zio Sam. La Cina importa quello che era il suo fagiolo da Stati Uniti e Brasile per circa 73 milioni di tonnellate all'anno. Ho detto milioni di tonnellate, non chili o quintali. Nel Sud America c'è la cosiddetta Repubblica Unita della Soia, tra Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay e Colombia. Ha una superficie di 46 milioni di ettari, cioè una volta e mezza l'Italia. Serve ovviamente a carburare anche l'allevamento europeo, ma è la Cina che spinge, altrimenti il mercato sarebbe stagnante e l'Amazzonia non brucerebbe. Un cargo dal Brasile pieno di soia mi dicono che trasporti 52.000 tonnellate, che poi passi da Panama direzione Cina o tiri dritto per Amsterdam poco importa. Che lezione voglio trarre? Che morale discende da questa favola? Che non è una favola, è la realtà. La favola che vi raccontano la sera è quella della filiera corta. Una bella favola, che sta a tutti noi trasformare in realtà però. Tutti, a cominciare dal ministro dell'agricoltura fino ai giornalisti Rai, ai corsivisti di Vita nei Campi. Ne va dell'agricoltura friulana e della vita nei nostri paesi. Si vive una volta. La programmazione comunitaria 2014-2020 volge al termine. Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, chiediamo quali sono le prospettive per la PAC ora del 2021-2027. Direi che è la classica domanda da un milione di dollari, anzi sarebbe meglio parlare di 370 miliardi di euro, che è più o meno la quota di bilancio comunitario destinato alla PAC. Di fatto sulla nuova programmazione sono molti più i dubbi che le certezze. Quanto ai ritardi registrati nelle nomine della nuova Commissione UE e quelli relativi alla Brexit si ripercuotono pesantemente tanto sulla definizione dei fondi disponibili, si prevede che il bilancio UE possa essere approvato non prima dell'estate, quanto sull'approvazione dei regolamenti esecutivi e delegati che stabiliranno chi, come, quando e quanto avrà diritto a percepire gli aiuti comunitari. Partiamo allora dalle poche certezze. Allora, sicuramente tutto l'impianto della PAC dovrà tener conto di quello che ormai è noto come il Green Deal, cioè quel programma annunciato dal Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che prevede che entro il 2050 l'Europa diventi un continente a zero impatto climatico. Per i pagamenti della PAC, anche chiamati del primo pilastro, ci attendiamo un innalzamento degli impegni di condizionalità e l'assorbimento del pagamento agroambientale, il cosiddetto greening, all'interno del pagamento base. Vedremo poi quali saranno le ripartizioni finanziarie tra gli Stati membri, ma le ultime stime parlano di un taglio vicino al 15% per l'Italia. E per lo sviluppo rurale? Allo stato attuale, il secondo pilastro, si parla di un taglio vicino al 4%, con risorse vincolate a obiettivi di sostenibilità ambientale crescenti. Ma quello che più ci preoccupa è che la Commissione chiede a tutti gli Stati membri un unico programma di sviluppo rurale attraverso un'unica autorità di gestione. Le regioni quindi sarebbero tagliate fuori dai processi decisionali. Ammesso e non concesso che ciò si traduca in una qualche semplificazione di sistema, resta da capire come sarà possibile rendere efficace un'unica strategia di sviluppo su territori tanto diversi lungo la penisola italiana. In attesa della nuova PAC, intanto, cosa si fa? È previsto un periodo di transizione che riguarderà sicuramente il 2021 e forse anche il 2022, nel quale si continueranno a applicare le regole vecchie utilizzando pro quota i fondi della nuova programmazione. Sarà garantita così la continuità per i pagamenti essenziali come i pagamenti diretti, le misure a superficie del PSR, le indennità compensative e il primo insediamento. Per gli investimenti invece i tempi saranno sicuramente molto più lunghi, per cui chi è interessato farà bene a approfittare degli ultimi bandi di questa programmazione che si apriranno tra un paio di mesi. Per la rubrica dell'olio e dell'olivo, oggi con il tecnico dell'ERSA Ennio Scarbolo, siamo arrivati a parlare dei terreni vocati per questo tipo di coltivazione. Dunque, i terreni dell'alta pianura friulana si caratterizzano per la notevole presenza di scheletro e terre rossa e ferretto, drenanti con piovosità annuale media. Tutto fa pensare che questa vasta zona si presti per la coltivazione dell'olivo. Purtroppo non è così. In passato sono stati fatti molti tentativi, anche con impianti di notevole dimensione, che in un primo momento hanno dato buoni risultati nella zona di Codroipo, Mortelliano, Remanzacco e Sedeliano. Nel tardo autunno 2009-2010 si sono verificati abbassamenti notevoli di temperatura associata ad elevata umidità dell'aria, presenza di neve al suolo che hanno provocato la morte di quasi tutte le piante di olivo. Alcune avevano 10-15 anni. La perdita è stata notevole, una quarantina di ettari, e ha contribuito a rivedere le aspirazioni di molti olivicoltori. L'unica eccezione è la pianura nei pressi di Cividale, Moimacco e Premariaco. È una zona molto ventilata e poco umida. Sono presenti interessanti impianti con dimensioni di 3-4 ettari, con presenza di oltre il 50% di cultivar autoctone come la bianchera e il gorgazzo. Invece l'olivicoltura della pedemontana pordenonese, alla fine degli anni 90 sono stati effettuati i primi impianti sperimentali dimostrativi di olivo ad opera di ERSA e della comunità pedemontana, effettuati in diversi appezzamenti con diverse varietà di olivo autoctone e di diversa provenienza. Questi impianti pionieri hanno dato importanti indicazioni sull'andamento della coltura e sul futuro di questa zona, specialmente da Aviano verso Canova. A nord della strada provinciale pedemontana si prestano ad essere maggiormente coltivati e valorizzati con questa specie frutticola. In realtà, con successo, l'azienda Casagrande di Canova aveva già, ai primi anni 90, sperimentato ed effettuato impianti di olivo in terreni abbandonati e incolti. In questi ultimi anni sono stati impiantati parecchi ettari, circa 60. Il rischio di danni da freddo è molto contenuto rispetto ad altre zone olivicole regionali, dovuto al naturale riparo da parte del massiccio montano del Piancavallo. Si presta alla coltivazione anche la zona collinare che va da Pinzano a Cavasso Nuovo. Sono già presenti circa 30 ettari. Oggi con Franca Merluzzi per la rubrica dei giardini andiamo a Rocca Bernarda in comune di Premariaco con il suo parco e le ampie vedute sui vigneti dove si produce il famoso piccolito. Si arriva da Premariaco oltrepassando Iplis oppure dalla strada Cividale Cormons. Salendo da qui si incontra un bel bosco di querce. Si prosegue imboccando poi un viale fiancheggiato da ulivi, e si raggiunge la rocca su cui sorge la Villa Castello. Ha 4 torri circolari ai lati. Si ammirano 2 cipressi monumentali, di cui uno vecchio, si presume, di oltre 500 anni, e si entra nella corte interna. Di fronte si vede la dimora signorile, che accanto la chiesetta e la limonaia, con grandi vetrate, oggi edificio di rappresentanza, ornata da un glicine che ha ottenuto il riconoscimento di albero monumentale. La posizione è veramente dominante e da lassù si gode una veduta eccezionale. Vicino i colli disegnati dai vigneti, qua e là macchie boschive, e in lontananza la pianura con paesi e campanili. Nel parco circostante si può passeggiare liberamente, lungo il viale dei Carpini e lungo i declivi tra leci, ulivi, cedri e cipressi, con un occhio di riguardo per la vecchia Tuia. Meritano una visita le cantine delle riserve barricate e l'antica cucina. Come non ricordare la contessa Giuseppina Perusini, autrice di libri di gastronomia friulana, vissuta in questo luogo. Durante le 2 guerre fu lei, vedova, a reggere le sorti della tenuta. Quegli esponenti della famiglia Perusini iniziarono la selezione e la salvaguardia di alcuni vitigni autoctoni. Sì, tra cui il vecchio vitigno Piccolit, a rischio di estinzione, che fu riscoperto da Giacomo Perusini all'inizio del Novecento. Il figlio Gaetano lo rilanciò e grazie a lui il vino riacquistò fama e mercato. Le cantine sono ospitate nell'edificio rosso e sparse tra i ronchi si vedono case anch'esse dipinte di rosso come la rocca padronale a cui appartenevano. Le catene montuose, ora innevate, sono uno sfondo bellissimo per i colli dai filari sinuosi lungo le curve di livello dei vigneti. Dodicesima puntata con Sandro Menegon dedicata al letame. Ancora considerazioni sul secondo dopoguerra, alla ripresa e all'avvio verso il boom economico. Dagli anni dell'industrializzazione e del boom economico, con la chiusura della stalla, specialmente nella zona alpina prealpina, gradualmente ma inesorabilmente la gran parte delle piccole aziende cessò la propria attività. In alcuni casi emersero altre priorità. Infatti negli anni 30, per una condizione di decoro giustamente preteso dalle numerose stazioni climatiche sportive, si consigliava l'uso delle concimaie chiuse negli anni 50 in ambienti in cui la stagione sciatoria ha già un discreto sviluppo. Lamentano l'uso di spargere nel febbraio-marzo il letame sulla neve. E in pianura cosa è successo? Anche in pianura la gran parte dei piccoli varamenti scomparve, con la conseguenza mancata necessità di produrre foraggio, che determinò l'abbandono della coltivazione delle foraggere, la medica in particolare, uscendo dalla logica della rotazione, e gradualmente si passò a una preponderante monocultura, che a parte l'interramento dei residui vegetali, usufruiva solo delle concimazioni minerali. E quali furono le conseguenze dei nuovi sistemi di allevamento? Le previsioni che col tempo gli allevamenti all'aperto e le stalle aperte si faranno strada si concretizzarono inizialmente con adattamenti a tettoie, sottoportici e a recinti fabbricati con materiali e legnami aziendale, passando poi gradualmente alle metodiche attuali. Già nel 1962 in regione 250 allevamenti avevano adottato la stabulazione libera del giovane bestiame bovino e una ventina per le vacche da latte. Le lettiere permanenti, i grigliati, i nastri trasportatori, i raschiatori, le cuccette portavano a diverse tipologie di liquami letami e gli allevamenti intensivi, non solo bovini, crearono presupposti per individuare diversi e idonei regolamenti per lo smaltimento dei residui organici. Considerazioni finali. Potremmo considerare di essere passati da un'egemonia a quella del letame ad un'altra, quella dei concimi chimici. Il monarca letame venne spodestato, o perlomeno si ridusse di molto la sua regale immagine, rubando una fase utilizzata dal veterinario romano in un'altra occasione e per un altro argomento, potremmo dire che però lascia onorata memoria. Economos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli. Andamento stabile venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,30 e 16,50 euro al quintale IVA esclusa, la soia tra 34,80 e 35,10, l'orzo con peso specifico 60,63 tra 16,20 e 16,70, il frumento tra 19,10 e 19,40. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 60 centesimi il quintale e la soia è aumentata di 1,40 euro. Scambi discreti all'ortofrutticolo di Udine con prezzi in equilibrio. L'insalata gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate all'ingrosso tra 0,90 e 1,10 euro al chilo, IVA esclusa. Le zucchine tra 1,90 e 2 euro, i peperoni gialli e rossi tra 1,90 e 2,10, le melanzane tonde tra 2,20 e 2,30, la scalola riccia tra 2,50 e 2,70, i pomodori italiani in grappolo tra 2,20 e 2,30, i cavoli tra 1,40, il radicchio rosso tondo tra 0,80 e 1,20, quello di Treviso precoce tra 1,50, quello tardivo tra 2,50 e 3,20, i kiwi tra 1,50 e 2 euro, le mele golden tra 0,80 e 1,50, le clementine da 1,90 a 2,50 e le arance tarocco tra 0,80 e 1,50. Settimana discreta nel settore della pesca per le condizioni climatiche buone. Alla cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare, i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati da 15 a 20 euro il chilo IVA esclusa, i rombi da 25 a 30, le ombrine da 10 a 29, le sogliole da 5 a 20, le canocce e le passere da 4 a 10, i moscardini da 15 a 12, le mormore da 10 a 14, i calamari da 15 a 20, i gamberetti da 15 a 22 e i latterini da 12 a 14. Infine, tendenze attive nel mercato degli aviconicoli con i poli a terra pagati tra 0,92 e 0,94 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,45 e 1,47, le faraone tra 2,25 e 2,29, le anatre tra 2,45 e 2,49, mentre il prezzo delle uova oltre i 73 grammi è di 14,10 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Osmer Sergio Nordio sentiamo cosa ci riserverà il meteo nella settimana entrante. Anche in questo primo scorcio di febbraio le temperature sono state molto elevate, con valori medi su pianure e costa di 2,5-3 sopra il normale, mentre in montagna l'anomalia è stata ancora più elevata, specie nei fondovalle dove c'è poca neve al suolo, con valori da 3,5 fino a 4,7 in più. Quest'inverno, al momento, per gran parte dell'Europa, della Russia e dell'America del Nord, è già archiviato come tra i più caldi dall'inizio delle regolari osservazioni climatiche. La situazione adesso cambia un po' e oggi in giornata inizieranno ad affluire correnti progressivamente più umide da sud-ovest nei bassi strati. Nei prossimi giorni le nostre Alpi saranno sul confine di due consistenti masse d'aria diverse, quella più mite di origine africana e quella più fredda e umida del nord Europa. Lunedì è previsto un peggioramento, con piogge sparse moderate su pianure e costa, più deboli sul Pordenonese, e deboli nevicate, specie sulle Alpi e Prealpi Giulie, oltre i 700 metri di quota circa. In serata saranno possibili delle nebbie. Martedì probabile tempo migliore, con nuvolosità variabile, ma saranno possibili foschie o nebbie, specie nelle ore notturne e su pianure e costa. Mercoledì avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso. Le temperature non subiranno significative variazioni, rimanendo sempre un po' sopra la media del periodo. Nella seconda parte della settimana le previsioni sono ancora incerte, ma non sono ancora in vista significative variazioni della tipologia di masse d'aria in arrivo. Quindi, come suggeriamo sempre, è bene seguire via via l'aggiornamento delle previsioni. Termina qui la puntata, vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano dedicato alla luna, luna rossa o capissa o che soffia, ovvero con la luna rossa pioverà o ci sarà vento. Coordinamento tecnico di Daniel Apostu, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it, potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.